relatati proprio in modo molto saggio in precedenza, quindi eviteremo di ripeterli. Bene, partivo dopo da una seconda immagine, che è una delle immagini che si vedono nell'attuale campagna elettorale, che però con questi miracoli dovrò descriverla, perché in effetti per qualche motivo l'animazione che io ho programmato non è venuta fuori. E in pratica il timbro di una lettera, dove effettivamente nella figura del timbro si vede il volto di Pablo Iglesias, effettivamente è un invito anche a fare da postino a diversi membri del partito, a collaborare in una maniera collettiva per tentare risolvere una situazione che si prevede difficile, perché sappiamo che da un certo punto di vista, peccato è la carina, no, per far vedere, però la tecnologia ha anche questi, ai suoi limiti. Questi limiti e questi problemi. Fondamentalmente possiamo dire che questo invito riguarda anche uno dei punti deboli per il quale possiamo è attaccato subito dal sistema. I sondaggi sappiamo che non rispecchiano le realtà, e non rispecchiano la realtà perché in effetti un partito che si nutre dai contributi volontari degli elettori può avere più dubbi nel momento in cui non è così sicuro del successo del partito. Quindi questi sondaggi che inizialmente tentavano in qualche maniera di mettere paura alla gente, di far reagire i partiti da parte dei giornalisti, a un certo punto sono cambiati e è cambiata la strategia comunicativa rispetto a Podemos. Non è stato più visto come un modo minare le basi del Partito Socialista, e di conseguenza si è articolata una lotta aperta, che è la situazione attuale che viviamo. Quindi una lotta contro Podemos che tutti sapete anche ha ostacolato uno degli argomenti che poi abbiamo messo in evidenza, no? Ha ostacolato anche la possibile integrazione e la partecipazione cittadina che tutti si auspicavano. Di recente sono stati integrati dei personaggi di rilievo, un escapo delle forze armate che nonostante il prestigio che ha avuto come personaggio, subito è stato preso dalla pressione mediatica e la semplice rinuncia al suo posto di lavoro, che era presentata per forza di cose perché evidentemente voleva entrare in politica, lui era nella riserva ed era già praticamente quasi prepensionato, è stata presentata dal Partito Popolare ai mezzi pubblici come una dimissione forzata, come se fosse stato cacciato via dal posto che aveva. Quindi potete immaginare le dimensioni della lotta, proprio inoltre fatto contro un personaggio che non ha la minima ombra di dubbio in funzione delle diverse azioni che aveva portato avanti. Lo stesso per quanto riguarda anche un personaggio che molto coraggiosamente, evidentemente Manuela Carmena, giudice che aveva anche lavorato nel suo periodo di lavoro professionale contro la corruzione giuridica in Spagna, dato che non ha avuto neanche una grande trascendenza a livello internazionale nel modo di presentare il personaggio, anche lei è stata bersaglio permanentemente di critiche offensive senza base, e sapendo che soltanto funzionavano come un fumo che crea polemica intorno a Podemos, intorno ai personaggi che sostengono Podemos, e che è una sorta di allerta per evitare l'incremento, per evitare la voglia che aveva sollevato di una maggiore partecipazione cittadina. Qualsiasi cittadino che attualmente abbia una minima intenzione di unirsi a Podemos e di partecipare attivamente nella vita politica sa che immediatamente sarà analizzato, sarà sotto l'occhio del potere, no? partivo anche da un quadro generale, quindi spiego questo, dopo lascio la parola a Carmelo in maniera così di fare una eco alternanza. Partivo di questa frase conosciuta ovviamente per tutti noi nel contesto italiano, con le due mappe che in realtà stanno ad indicare due realtà diverse che ho tentato di analizzare, lo farò in modo più sintetico, lì ho messo diversi punti per spiegare quel che a mio parere è rilevante per fare un'analisi propedeutica su come bisogna comportarsi in Italia per ipotizzare una politica analoga a quella di Podemos e quali sono le ragioni che effettivamente impediscono farsi prendere dal miraggio di false analogie. L'Italia è un paese che ha un'identità nazionale costruita in un modo quasi opposto alla Spagna. L'Italia era smembrata e ha ripreso. Era un paese che era un paese potenziale, unito dai legami culturali, e che era stato spezzato da interessi logistici all'interno del Mediterraneo delle grandi potenze. D'accordo? Quindi questo punto di partenza fa dell'Unità d'Italia, in un certo modo anche con tutti i percorsi discutibili, con tanti punti deboli che dovrebbero essere sicuramente rianalizzati nella costruzione di un nuovo immaginario per la realtà politica italiana, ma che esistono ancora e hanno una grande forza, l'Unità d'Italia costituisce comunque, contrariamente a quello che troviamo nella Spagna, una salvezza, un recupero di un'identità persa, mentre in Spagna abbiamo un'identità creata fondamentalmente in funzione di una monarchia che nel momento in cui travasa la dinastia e quindi si fa contagiare dal centralismo borbonico diventa un'imposizione. Non so se tutti sapete, ma fino agli Asburgo la corona era una somma di corone, il re non erano il re, si diceva anche il plurale delle Spagne, per tentare di abbreviare, d'accordo? Erano dei re, dei singoli regni che confluivano in una figura che in qualche maniera si identifica con quella dell'imperatore, che fondamentalmente a partire dalla scoperta dell'America, dove il baricentro commerciale cambia nel Mediterraneo e si sposta di più verso il nuovo commercio. E allora anche i paesi musulmani si risentono da questo punto di vista, perché il loro protagonismo decadrà gradualmente. No? Le lotte nel Mediterraneo sono le ultime lotte proprio contro i tentativi dei musulmani anche di controllare o di impedire la pirateria, ad esempio, no? Le incursioni inglesi, portoghesi verso le altre vie alternative, verso il mercato orientale e verso la Spagna. Quindi abbiamo due realtà che effettivamente hanno delle nature diverse, che creano un quadro. Quando uno si chiede effettivamente che cosa è il problema dei nazionalismi in Spagna, credo che adesso sicuramente potete capire che non è la stessa questione regionale in Italia. In Spagna ha delle radici più profonde e a volte anche, come nel caso della Navarra o della Catalogna, l'associazione con la Spagna è stata forse una forzatura per tentare di mantenere la propria identità nazionale, perché altrimenti veniva assorbita dalla Francia. No? E curiosamente adesso c'è quasi un tentativo opposto. Di tentare di cercare un sostegno. E c'è poi un altro fatto, la questione delle guerre, la questione di una nazione come l'Italia, che ha un movimento partigiano che vince, che supera i problemi del fascismo e che evidentemente fa anno zero, toglie tutte le tracce e inizia a trasformare una società che inoltre era più nazionale, aveva più infrastrutture, forse perché Mussolini effettivamente ne aveva bisogno di strade, militare, ne aveva bisogno di sviluppare determinati tipi di industria, come era capitato con questa applicazione economica del keynesianismo in modo simile nell'area tedesca. No? Da questo punto di vista questo potenziamento dello Stato crea anche un quadro diverso che in Spagna adesso lo dobbiamo percepire in un modo differenziale, chiaramente differenziale. C'è anche una questione dei diversi sviluppi economici, mentre la Spagna per diversi motivi proveniva quasi da un tipo di regime di transizione feudale nutrito da questa forza coloniale ancora dell'impero. La Spagna era un po' come la Russia, poteva avere avuto dei tentativi rivoluzionari, perché le condizioni c'erano. C'era da scavalcare e da passare da una situazione arretrata al tentativo di trasformare quella società in una società più moderna. E questa situazione non è simile nell'Italia. Nell'Italia la borghesia esisteva già, aveva un ruolo importante, il grande capitale anche si era costituito intorno ad un'industria molto più forte e abbiamo anche degli importanti nomi che già controllavano l'economia e la vita politica, o almeno la influenzavano in maniera chiara. Questo in Spagna non è così, la borghesia che lascia il franchismo effettivamente si nutre fondamentalmente dal capitale finanziero. Non c'è stato il piano Marshall, però gli aiuti degli Stati Uniti sono serviti ai piani di sviluppo della banca. E quindi troviamo una piccola borghesia che è in crescita e che trova, diciamo, l'apice nel momento in cui arriva la crisi neoliberale. E questa borghesia ancora felice, fino a quando non passano uno o due anni, non vede in realtà quali erano le condizioni di questa politica di austerity che avevano accettato, perché in Spagna tutto quel che proveniva dall'Europa si accettava a occhi chiusi, perché l'Europa era l'orizzonte. E l'Italia era l'orizzonte negli anni 70. Noi, è strano per noi tentare di venire qui a dare delle lezioni di politica, è proprio una coincidenza, quando in realtà tutti noi abbiamo una formazione che o è neogranciana, come succede nella maggior parte dei leader di Podemos, nel mio caso più francese, più altusseriana, però siamo lì, noi ci siamo comunque nutriti, anche lo stesso Althusser aveva studiato Gramsci come uno dei punti principali delle sue riflessioni. Quindi abbiamo due realtà che effettivamente fanno scoppiare una crisi molto diversa, come è diversa la crisi di una Grecia che effettivamente già aveva tutto il tessuto economico smantellato. È diversa in Spagna anche perché il Partito Socialista aveva fatto in gran misura il lavoro che non ha potuto fare, che non si è permesso di fare neanche il più radicale di Berlusconi nel momento di massimo potere, perché sapeva di avere i sindacati contro, sapeva di avere anche l'esistenza ancora di una politica sociale da preservare che sicuramente non farebbe comodo ai suoi interessi, tanto così che in un certo senso ha ragione chi definisce come colpo di Stato quello che è stato operato contro Berlusconi, imponendo il governo Monti, che effettivamente ha iniziato queste trasformazioni di austerity che la Spagna già invece aveva iniziato ad accettare di buon grado. Quindi la situazione è diversa in tutti i paesi, anche se abbiamo molti elementi in comune, fondamentalmente è la radice del modello neoliberista, che evidentemente ha un tipo di progetto che è lo smantellamento delle risorse pubbliche per tentare ancora dei mercati di nicchia con cui cercare delle operazioni di investimento per chiudere i buchi economici che crea e prendersi un pallone di ossigeno per l'economia. Il problema è che noi sappiamo che quando siano finite queste risorse, sanità e educazione, i beni comuni saranno spariti, saranno tutti nelle mani private e non saranno, come sappiamo, redditizi. Quindi ci troveremo ad un'unica soluzione, che è quella che attendiamo, che dobbiamo purtroppo attendere, che è la precarizzazione del lavoro. Da questo punto di vista sì, abbiamo sicuramente i paesi periferici, un fronte comune verso il quale dobbiamo lavorare. Quindi questo è il punto di partenza e un po' che ci porta agli antefatti, che effettivamente io avevo sintetizzato con questo piccolo video, che non è il caso che andiamo a vedere, però vi sintetizzo anche velocemente gli interventi negli anni 90 di Julio Anguita, da parte di quell'Izquierda Unida molto brillante che c'è stata in quel periodo in Spagna, nei quali effettivamente vaticinava ciò che successivamente è accaduto, e in quel momento prendeva anche un tipo di politica che rispecchia molto tanti aspetti che sono stati presi da Podemos. Quindi questo è il primo punto che sicuramente ci può dare un quadro della situazione, fino a quando non arriviamo a questo nostro sueño, no caben en vuestras urnas, che sarebbe uno degli slogan principali che hanno accompagnato il movimento 15M. Quindi credo qui potresti anche iniziare tu a relatare questo capitolo, se vogliamo. Un po' l'inizio di Podemos, volevo raccontare la storia, sicuramente la conoscete tutti già, ho parlato anche all'inizio. Come sappiamo, Podemos nasce da questo movimento 15M, ma il movimento 15M del 2011, invece Podemos ci sono tre anni praticamente di nascita di questo partito, di riflessioni, di creazioni, no? di tanto lavoro, che certamente sembra che è vero che Podemos nasce velocemente, cresce velocemente, ma dietro c'è un lavoro molto, molto grande, fatto soprattutto da questo gruppo della Complutense, delle Scienze Politiche, della Facoltà di Scienze Politiche della Complutense, formato da Iglesias, Rejón, Morelos, questi oltre voi, quelli che si sono uniti e che anche hanno collaborato i professori. Tutto questo periodo in cui nasce una televisione, in cui questi professori fanno le sue ricerche, hanno le collaborazioni con questi stati, da dove poi è venuta questa critica, no? La collaborazione con gli stati ispanoamericani di Venezuela e Ecuador, da dove anche hanno ottenuto dei finanziamenti con cui è partito anche Podemos, no? da che ha cominciato la nascita di Podemos. Fino a questo incontro che si tiene al palazzetto di Vistalegre nel 18-19 ottobre del 2014. Praticamente là è la fondazione di Podemos, perché anche se Podemos inizia come movimento, non come partito, a gennaio del 2014, per partecipare, si lanciano questa avventura di partecipare alle elezioni politiche, alle elezioni delle europee, scusate, del maggio del 2014, con una grande... Ora in questi momenti si parla molto di questo fatto, soprattutto per quanto riguarda le inchieste, no? I sondaggi dei politici, perché loro sempre dicono che alle elezioni europee sono partiti come un partito, come una minoranza, come se pensando di non avere, quasi nessun voto. Invece hanno avuto questi deputati europei, e da lì è partito tutto il movimento e il lancio di Podemos. E dopo queste elezioni europee si costituisce per partito e ci sono le elezioni amministrative, dove c'è questa confluenza con altri movimenti, con altre associazioni, no? Podemos è sempre stato aperto, certamente quello che non vuole è essere mischiato da lì, dal rifiuto dell'unità che alcuni criticano, no? con Izquierda Unida, di essere mischiato con i vecchi partiti. In Spagna c'è almeno Podemos è molto chiaro su questo, non vuole essere rischiato con i vecchi partiti. Loro promuovono, predicano una nuova politica, e questa politica di non identificarsi con i partiti politici che sono stati anche mischiati quasi tutti, anche Izquierda Unida purtroppo ultimamente con la crisi, no? Della banca sta queste carte di credito nere che si chiamano in Spagna, che erano distribuite fra i politici dei diversi partiti, anche quelli di Izquierda Unida, e con cui facevano delle opere senza freno. Allora, non vuole essere mischiato in questa politica, e per quello non è un rifiuto delle origini, perché anche Iglesias e tutti gli altri membri sono molto orgogliosi dei suoi origini di sinistra e anche della sua famiglia, no? Iglesias ha una famiglia, ha un nonno che è stato assassinato dai franchisti, no? dal fascismo. Ma certamente questo non vuol dire che vogliono essere uniti a questi partiti politici, perché loro non concordano con il modo di organizzarsi e con il modo di partecipare in politica. E questo, secondo me, è anche un aspetto su cui bisognerebbe riflettere anche in Italia. So che, come ha detto Fernando e come hanno detto prima, qui è molto difficile trovare delle... No, non molto difficile, ma non si trovano facilmente per ragioni storiche le similitudini fra l'Italia e Spagna, tra la storia politica della Spagna e l'Italia. Ma questo superare questa fase di dire noi quello che vogliamo è il bene della gente, usano molto questa parola, usano molto i giochi di Podemos, no? Della gente, della maggior parte, del 90%, questo deve essere al di sopra delle identità dei singoli, di tutte le altre questioni che sono superflue. Allora, dopo tutto questo percorso iniziale, si arriva agli amministrativi, dove si ha questo grande successo, dove si conquistano queste, soprattutto le due città più grandi della Spagna, Madrid e Barcellona, con sindaci non di Podemos, che sono delle coalizioni che si sono formate, ma certamente dove Podemos ha un protagonismo importantissimo, anche la Coruña, anche Zaragoza, anche dimentichiamo Cadice, alcune di queste come Cadice, città che sono governate veramente da Podemos, da un dirigente di Podemos, non da un dirigente che è stato sostenuto da Podemos con altre associazioni, e si arriva con questo successo a avere una base importante della popolazione. Dopo è vero che si sono stati, perché fino alle elezioni di maggio c'è stato un successo enorme, le televisioni ne parlavano, il programma, la televisione anche di Podemos, questo programma che ha creato di Pablo Iglesias, La Tuerca, aveva un grande successo nella rete, e anche tante la televisione, soprattutto La Sesta, che era una delle quelle televisioni non una televisione privata, là sono state le televisioni in Spagna, sono le televisioni private quelle che parlano di Podemos e dei partiti che non sono del governo, perché la televisione pubblica, come sapete, è controllatissima dal governo, è dominata e ha avuto una caduta di audience molto forte. E allora si comincia a parlare, dopo queste elezioni amministrative, c'è una discesa, diciamo, no? Cominciano i grandi partiti, cominciano a vedere che questa, anche il PSOE, non soltanto il Partito Popolare e il Partito del Governo, cominciano a vedere che è un nemico molto forte, Podemos, e che bisogna combatterlo. E da lì è cominciata certamente tutto l'opposto, a cercare di oscurarlo, a cercare di condannarlo per qualsiasi cosa, di fare il terzo grado a tutti i suoi dirigenti, per cercare di trovare qualche delitto, qualche crimine, qualche parola che hanno detto, qualche la macchina del fango, la macchina del fango, qualche tweet che hanno scritto 7 anni fa, che è successo con uno dei consiglieri comunali di Madrid, e cose di questo tipo, no? E secondo me si è arrivato a questo momento in cui un po' da una parte ci ha avuto la soprattutto, che questo è molto importante, perché io dico, noi parliamo di politica, ma noi riflettiamo, cerchiamo di apportare le nostre idee, ma la gente comune, la maggior parte della gente, quello che guarda è vedere se può campare, può arrivare a fine mese, i suoi figli possono ricevere una riduzione migliore o hanno un po' più di soldi in tasca, e questa cosa il governo attuale, soprattutto nell'estate scorsa e un po' dopo l'estate, ha cercato di pompare un po' l'economia attraverso questi, una cosa tipo quello che ha fatto qua Renzi degli 80 euro, no? Ha restituito una parte, quasi un 70% della tredicesima che aveva preso 2 anni fa per la crisi, no? Che si era praticamente non aveva pagato, e poi anche c'è stata una discesa delle fatture del gas e della luce. Questo certamente, questi due effetti sono molto importanti, perché Si è sentito nella popolazione spagnola, e ora ancora si sente un po' questa specie di un miglioramento dell'economia, che secondo me fa sullo, e che dopo le elezioni potrebbe tornare a una situazione critica come era quella dell'anno scorso o di qualche mese fa. Comunque, il programma di Podemos, io volevo un po' fare un elenco così, in modo un po' più sistematico, di quello che predica Podemos, perché anche molte cose dei principi di Podemos, quello che si è detto qua, hanno a che vedere con la sinistra, certamente con i movimenti di sinistra italiani e europei, ma hanno a che vedere anche con questa identificazione a volte di Podemos con il Movimento 5 Stelle, no? E inizialmente fanno molto, ora proprio in questi giorni si sta parlando di questo altro partito che si è creato, sapete, questa specie di marca bianca, diciamo, in Spagna del Partito Popolare, che è Ciudadanos, e che ha fatto una proposta di innalzamento dello stipendio del Presidente del Consiglio, così come proposta elettorale, che sembra un po' così assurda per le elezioni, ha proposto di innalzarlo 4 volte tanto, sarebbe passare dai 5.000 euro, attualmente il Presidente del Consiglio non arriva a 6.000 euro al mese, ma passarlo a 20.000 euro al mese. E certo, questo è stato molto criticato da Podemos. Podemos fa molta critica agli stipendi dei politici, cercare di spendere a queste spese facili, certamente cree, non per la questione del risparmio, perché certamente sappiamo che il risparmio che ci può essere negli stipendi di qualche migliaio di politico non può risolvere paese, ma per la questione dell'esempio, no? Dell'immagine che ci dà l'immagine. Allora, anche questo è tenuto molto in conto, uno dei principi, e soprattutto anche di non essere finanziati, non dice di non essere finanziato assolutamente, in questo è diverso da quello che sostengono per esempio i 5 Stelle, no? Ma di non essere finanziato dai gruppi di imprenditori e dai gruppi economici. Allora, Podemos non accetta nessun finanziamento da nessuna banca, si autofinanzia o riceve certamente i finanziamenti pubblici che li aspettano come partito e che sono regolate dalle leggi, no? Poi, anche ora leggevo, prima di arrivare qua, nell'annuncio dell'incontro c'era un intervento, non mi ricordo il nome di chi, che diceva Io mi piace Podemos perché credo che è un partito di sinistra, ma non mi piacciono i suoi dirigenti perché dicono di non essere di sinistra. E l'ho detto prima, Podemos non rifiuta le origini, tutti i suoi dirigenti e rappresentanti hanno soprattutto, sono stati membri di qualche partito di sinistra o sono stati molto vicini ai partiti della sinistra, ma fa questa distinzione, fa questo innalzamento secondo me superamento della discussione destra-sinistra, che è di dire siamo con il 90%, siamo con quelli che hanno sofferto, con quelli che non hanno, che sono stati danneggiati dalla crisi e dalla situazione economica, no? Allora non è questione di dire non essere di destra né di sinistra, ma di non essere inquadrato in un modo. Perché secondo me questo è importante? Perché noi forse, molti di noi, soprattutto quelli che hanno fatto politica nella sua vita, certo, per noi è molto importante identificarci in un partito, in un'ideologia. Ma secondo me per i giovani, e per la gran maggioranza, la gran parte dei giovani, non questo di avvicinare a una sigla, a un partito, a un simbolo, già crea una specie di rifiuto, è molto difficile che ci sia un avvicinamento da parte soprattutto dei giovani, perché identificano la politica come qualcosa, i partiti politici come qualcosa di che non gli appartiene, che è corrotto, che non è buono, no? Non certamente come dice Monevero e tutti gli altri dirigenti di Podemos, non è un rifiuto della politica in sé. Loro fanno molto, molto, sottolineano molto questo aspetto della politica come una cosa importantissima. Come Monevero nel suo libro dice che il peggiore analfabeto è l'analfabeta politica, no? Quindi è quello che non si interessa in politica e praticamente sta danneggiando lui stesso e danneggia le persone che si sono intorno. Poi anche chiedono un rafforzamento dello Stato pubblico, e qua vediamo certamente molto di secondo me un aspetto molto importante della sinistra, un abbandono dell'austerity, investimenti pubblici, voglio dire un rafforzamento del tutto il settore pubblico, anche una nazionalizzazione di settori strategici. In questo certamente è molto importante, quasi non per la nazionalizzazione in sé, ma per frenare la vendita praticamente dei pezzi dello Stato importantissimi che creano una, come in Spagna è successo con la sanità, no? Con tutte la sanità privata che si è creata soprattutto a Madrid con i governi del Partito Popolare, e che certamente le stanno portando a una precarizzazione di questo settore. E chiedono certamente molto importante la partecipazione popolare attraverso la rete, ma anche attraverso tutte le assemblee, sapete, i circoli sono creati per questo, e anche, come dicevo prima, i costi della politica e la corruzione. La corruzione è una cosa che non entra all'interno di Podemos, e che tutti i suoi membri, anche rappresentanti, non devono essere implicati in nessun caso di corruzione, altrimenti vengono espulsi immediatamente. Una difesa delle libertà individuali, dei diritti civili, difesa delle minoranze, sapete che abbiamo anche dei rappresentanti di Podemos di minoranze, di tutti i settori emarginati della società. oppure anche la difesa di questo reddito di cittadinanza, che un po' anche ha a che vedere con una rivendicazione anche dei 5 Stelle. Certamente il reddito di cittadinanza come una cosa intelligente, non come un soldi per quelli che non vogliono lavorare, perché molti, la destra usa questa cosa sempre dicendo che certamente il reddito di cittadinanza vuol dire dare soldi a quelli che sono disoccupati perché non cercano lavoro, perché non vogliono lavorare. Il contrario, secondo me, è come bisogna stabilire, come propone Podemos, un sistema in cui ci sia una vera ricerca del lavoro e delle regole ben precise per cercare lavoro, ma certamente non si può lasciare senza copertura economica a intere famiglie, come succede, come attualmente in Spagna, anche come vi dicevo, c'è stata questa politica un po' elettorale del Partito Popolare, in cui si ha buttato un po' di soldi e ha creato questa specie di soluzione parziale. E poi soprattutto che quello che chiede, che secondo me è il messaggio forte di Podemos e di questa nuova politica che si basa soprattutto nel mettere al centro la gente, mettere al centro questo 90%, questo 99%, come si dice, come dice anche uno degli ispiratori di Podemos, che è Ernesto Laclau, non sapete, questo teorico politico argentino, e questa è la cosa più importante, che la gente partecipi delle cose che stanno facendo, perché ormai questi sono tutti progetti, punti di programma, ma veramente ora a Barcellona e a Madrid, in tutte le città dove non ci sono governi in cui partecipa Podemos, si stanno facendo queste cose molto oscurate, molto meno visibili certamente di altre cose che fa il governo della nazione, ma che invece sono molto efficaci e molto, che toccano molto la popolazione di queste città dove governa Podemos. Contatto con la gente, sempre partecipazione, creare, non dire alla gente ah no, dovete partecipare, venite, no, creiamo dei canali in cui facilitiamo che la gente possa partecipare, che possa apportare le idee, contribuire al benessere cittadino. Un po' questa presentazione, non so, credo che stiamo un po' dando diversi punti, quasi ripetendo alcune cose, ma credo che... No, forse abbiamo ottimo. Due o tre punti unicamente veloci che ci erano stati chiesti, non c'era la questione anche organizzativa. E a Vistalegre effettivamente si è stato un po' un tipo di movimento fondazionale, e quindi fin lì nessuno metteva in dubbio il meccanismo democratico. Non è che poi sia calato, come segnalava Carmelo, il meccanismo democratico. Vistalegre sarebbe l'assemblea fondativa di Podemos dopo le elezioni europee. Dove effettivamente vedete lì la struttura statale, l'assemblea cittadina che si riunisce ogni 3 anni, segreteria generale, insomma si crea l'infrastruttura, si crea una dirigenza, è assolutamente necessario, come si deve creare del resto, oltre alla candidatura che si sono presentate altre, anche se tenti di mescolare un po', è vero che quella avvantaggiata, pur votando, come succede a per coincidenza, per dare un po' di pluralità a alcune altre voci, perché non sono delle liste chiuse, però è vero che poi quella avvantaggiata è quella dalla quale emergono, tranne nel caso delle municipali, dove effettivamente sì, erano delle correnti che erano più equilibrate, invece all'interno di Podemos è logico. Chi si è insediato dopo questa prima organizzazione ha molto più vantaggio e ancora è presto, perché inoltre queste operazioni purtroppo giocano contro il tempo, è stato un po' un lampo il fatto di dover costituire un'infrastruttura e di farla funzionare. È ovvio che l'aggregazione di nuove correnti eccetera è prematura, adesso è impossibile che non ci sia in qualche modo la diligenza a portare avanti le proposte, le liste, i candidati che sceglie. ma il meccanismo democratico rimane e fondamentalmente rimane anche un'operazione di feedback. Cioè tutta questa struttura che vedete con la struttura territoriale e quei circoli che sono tematici o sono anche territoriali, come nel nostro caso, stabiliscono anche delle proposte che vengono integrate. In genere tutti i programmi portati avanti dal gruppo che ha presentato sempre Pablo Iglesias hanno integrato ad esempio le proposte di Echenique, le proposte delle alte correnti. Voglio solo fare una piccola osservazione, siccome c'è qui un rappresentante di progetto X che ha fatto un lavoro importantissimo di traduzione di tutti i documenti fondamentali di Podemos, tra cui lo statuto. Proprio nello statuto c'è un aspetto molto importante che sono le consultas revocatorias, cioè che sono praticamente la possibilità per i circoli e per gli iscritti in percentuali del 10% degli iscritti o 20% dei circoli di proporre la revoca del leader, di tutta la dirigenza, cosa che è diciamo assente nella maggior parte dei movimenti politici. Lì c'è la messa diciamo sostanzialmente in stato d'accusa del leader, quindi è la sua revoca. Questo è uno degli aspetti della democrazia reale di Podemos. Il posso garantire, analizzando bene come è accaduto in realtà, le dissensioni che ci sono state con delle oscillazioni verso Ganemos, verso Ahora en Común, questa piattaforma anche sostenuta per la convergenza con Izquierda Unida, in realtà funzionavano un po' sotto i principi di vecchia politica, perché gli strumenti già c'erano all'interno di Podemos, tanto per iniziare, per tentare delle operazioni di questo genere. Podemos è uno strumento e si propone più come strumento che come partito, come strumento per il cambiamento, quindi ha le porte aperte anche persino per la doppia militanza, non escludono le persone che appartengono ad altri partiti politici. Quindi questo è anche un segno importantissimo, no? Tutte queste mosse erano delle strategie dove abbiamo visto anche degli slittamenti come quello di Evo incredibili. Evo ad un certo punto è andato con Ahora en Común verso la convergenza con Izquierda Unida, ha visto che Izquierda Unida in realtà voleva lottizzare un po' le percentuali e creare la tipica convergenza di assegnazione di posti senza dei meccanismi democratici, ed è andata a finire di nuovo con Podemos. Quindi questo vi può dire un po' qual è l'andamento delle diverse convergenze, no? E questo è molto interessante, come effettivamente ci sono lì anche, sono stati già indicati alcuni da chi ci ha preceduto, da chi ci accompagna, il ruolo di Agora Voting, che il meccanismo già è stato detto, è stato esternalizzato. Per il programma economico c'è stata una confluenza con i tecnici, come deve fare qualsiasi partito politico, poi si è sottomesso a votazione già sin dalla prima bozza e dopo sono state proposte delle modifiche. È stato fatto da Vicens Navarro, che è cattedratico di economia dell'Università di Barcellona, e l'altro assessore di Izquierda Unida di Malaga, che è anche economista, e inoltre lui è militante di Izquierda Unida e collabora ancora con Izquierda Unida, quindi diciamo che da questo punto di vista la scelta già vi può indicare quando economicamente uno si muove nell'ambito anche di economisti che hanno un'ideologia chiaramente di sinistra, anche se lavorano con i tecnici, vuol dire che ti scegli questi personaggi perché ideologicamente hai o trovi un'identità. È ovvio che quando si sta parlando dell'idea di centralità che non ha a che fare col centro, si tratta di strategie comunicative e di strategie mirate all'egemonia. La pluralità delle candidature e la cooperazione per la partecipazione sociale, ho già spiegato per quale motivo effettivamente sono un punto dubbio, ma in un certo senso dovuti alla fretta di questi processi. Siamo passati per 3 elezioni con un partito che aveva appena un anno di esistenza, di vita, e che evidentemente ha anche un diverso tipo di impianto. Podemos a livello cittadino esiste ed è organizzato a livello rurale, non ha voluto presentare dei candidati ai municipali perché non sapeva chi poteva arrivare creare un circolo, inoltre i circoli avevano delle regole fondazionali ottime, in quanto era un allenatore pensato molto bene, bastavano tre persone a inaugurare il circolo. E lì faceva riferimento a tutte le persone che nello stesso territorio o nello stesso tipo di argomento, quando erano quelli tematici, volevano aggregarsi. E dopo si iniziavano a creare gli statuti, si iniziava a funzionare, esistevano anche, come è stato segnalato da Marco, esistono i meccanismi di revoca. Quindi, da questo punto di vista, funzioniamo in una maniera molto, molto democratica. E problemi e prospettive, ovviamente non dobbiamo ingannarci. Io, ad esempio, alcuni di voi lo sapete, con le catalane avevo, forse da questo punto di vista, sono più esperto applicando principi altisoriani e non nebranciani, avevo capito bene la trappola che aveva in Catalogna, poi in Catalogna Podemos, e che continua ad avere quando la Catalogna ha fatto la mossa corrispondente per fare un grandissimo favore alla destra nazionale. Il problema dell'egemonia politica diventa più atavico quando cambi lo spazio di riferimento. Sono come le regole grammaticali: una parola in inglese e in spagnolo cambia significato. Le strategie di Podemos sono calate da quel punto di vista e si sono visti in gran difficoltà. Hanno deciso, a mio parere bene, hanno deciso di seminare per il futuro. Sicuramente a breve scadenza la decisione di Podemos rispetto alla questione catalana non ha avuto l'accoglienza quando tutto si presentava come un essere, come un plebiscito, essere contro o a favore. E allora chi viene a dire dovete scegliere democraticamente, siamo a favore del fatto che la Catalogna si esprima e possa fare un referendum su qual è il proprio destino e qual è il proprio futuro, ma nello stesso tempo noi vogliamo e pensiamo che con un governo diverso la Catalogna ha un posto all'interno della Spagna e dovrebbe rimanere, e questo tipo di discorso evidentemente non pagava in quelle circostanze. Il plebiscito io l'avevo annunciato due giorni prima sapendo che sarebbe andato peggio persino dei sondaggi. In effetti i fatti mi hanno dato ragione, quando ancora si parlava a quei livelli, a livelli dei giornali, del fatto che Ciudadanos e Podemos fossero in una contesa per il secondo posto. Quindi pensate, quella debacle non è stata annunciata, io invece l'ho intuito per questo motivo. Per lo stesso motivo vedo che adesso, in funzione anche degli ultimi avvenimenti, purtroppo la situazione politica in Spagna sia ancora più imprevedibile perché ovviamente gli attentati portano ancora ad un piano di ragioni di Stato qualsiasi tipo di discorso politico. Le TV soltanto parlano del problema catalano, e dopo il problema catalano l'unica interruzione c'è stata quella degli attentati per tornare di nuovo ad una questione di tipo giuridico, ad una questione che riguardano le basi dello Stato, e lì il discorso neo-costituzionale e federalista di Podemos effettivamente è in un contesto prematuro, perché qua siamo un po' all'interno del vivere pericolosamente, che impongono queste situazioni veramente polarizzate. Di conseguenza io credo che anche da questo punto di vista l'onestà di Podemos è da valutare assolutamente, perché avrebbero potuto tentare di cambiare strada, e lì è dove possiamo capire che, come era stato detto in precedenza, il populismo non esiste come tale all'interno di Podemos. È stata un'immagine che ha nutrito la destra e che i giornalisti hanno traslocato qui. Per dire, è anche vero che si cita molto sovente l'anclavo, però non è vero, l'ispirazione ce l'ha con l'antropologo portoghese Juan Dos Santos, che effettivamente è in una linea vicina ai movimenti nuovi dell'America Latina, che tutti hanno studiato, anche Rejón, anche Iglesias hanno fatto dei lavori con i colleghi di Bologna, ma hanno fatto degli studi in America Latina, sono andati ad analizzare quello che succedeva lì. Questo non significa che effettivamente siano ciechi e abbiano voluto applicare gli stessi principi alla realtà spagnola, sarebbero pazzi, no? Lì i discorsi sono diversi e ovviamente dalle strategie definite, anche con una questione che sicuramente non è stata sottolineata. Ancora siamo dietro all'idea della casta, ma Podemos ha abbandonato casta come parola chiave dal periodo delle elezioni municipali e non si è più parlato, adesso è eccezionale, non è fra le strategie comunicative attuali di Podemos. Sicuramente la lotta è diventata un'altra, i risultati saranno veramente imprevedibili e difficili, però credo che egregiamente stanno tentando, un po' come segnalavo lì, come una sorta di work in progress, innovare con delle nuove strategie, tentare in qualche maniera di muoversi in maniera che il nemico non possa usare le strategie che già ha imparato contro di noi. La questione è che con questa liquidità riusciamo in qualche maniera a evitare i dardi che volano quotidianamente. Grazie tanto. Grazie. Non solo